24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Valentina Furlanetto a questa nuova edizione di 24 ore in Europa, subito il Consiglio europeo raccontato da Sergio Nava. Buongiorno dalla sala stampa del Consiglio europeo a Bruxelles, dove ci troviamo e dove si è chiusa ieri la due giorni di summit, un summit che doveva nelle intenzioni traghettare l'Europa verso decisioni definitive sull'integrazione economica e bancaria a fine anno, ma che nel giro di poche ore si è trasformato in una sfida, anche con toni aspri, tra Francia e Germania. Ma partiamo dalla fine, con la lunga notte negoziale, quella tra giovedì e venerdì, conclusasi solo alle 3 del mattino, che ha prodotto l'ennesimo compromesso in salsa europea. I 27 leader hanno stabilito che l'unione bancaria si farà, che tutti gli istituti di credito in Europa saranno riuniti sotto l'unico ombrello della vigilanza BCE, ma non da subito. Porta dunque a casa il risultato, soprattutto in chiave elettorale, la Germania, che non intendeva iniziare già a gennaio con un primo gruppo di banche, quelle attualmente più in difficoltà. Anche la Francia, con François Hollande, ottiene ciò che voleva, poiché l'accordo raggiunto nella notte impone ai 27 di concordare entro il 1 gennaio un quadro legale per l'avvio della supervisione, rispettando così formalmente la tempistica stabilita a giugno. Sullo sfondo di questo compromesso si comprende meglio il vivace scontro di giovedì tra la Merkel e Hollande, con la cancelliera che allarmava l'Europa proponendo un controllo europeo sui bilanci nazionali nel corso del suo discorso al Bundestag, e il presidente francese che all'arrivo a Bruxelles rispondeva piccato che le priorità erano ben altre. In buona parte era sicuramente pretattica, anche se le tensioni ci sono veramente state. Pretattica che ha consentito alla Merkel di rinviare il problema fino alle prossime elezioni tedesche, anche perché il presidente della BCE Draghi avrebbe spiegato come occorreranno almeno 6 mesi, se non addirittura un anno, prima di avere la vigilanza bancaria pienamente operativa. Hollande, dal canto suo, ha commentato che si tratta di un buon accordo, perché riguarda tutte le banche. È però chiaro che l'asse franco-tedesco, così come lo intendevamo col duo Merkel-Sarkozy, ha cessato di esistere. Ora è meno granitico. La grande sconfitta del summit appare così la Spagna, che vede rinviare sine die la possibilità di una ricapitalizzazione diretta delle sue banche da parte del Fondo Salva Stati. Il premier italiano Mario Monti si dice comunque ottimista sull'avvio di una ricapitalizzazione degli istituti in difficoltà già nel 2013, ma soprattutto chiarisce l'ostilità italiana alla proposta Merkel di un supercommissario per i bilanci nazionali, proposta naufragata almeno per ora. Sentiamo cosa ha detto Monti. Soprattutto, secondo me, il risultato importante è che pur non essendoci in questo momento pressioni immediate di emergenza nei mercati, il Consiglio ha saputo esercitare la sua capacità di decisione. Non paiono necessari a nessuno a questo punto nuovi meccanismi o supercommissari. Al summit europeo si è discusso anche di Grecia, teatro giovedì di nuove violente manifestazioni che hanno fatto anche una vittima. I 27 leader hanno prodotto una dichiarazione nella quale sostengono che Atene ha compiuto buoni progressi ma deve continuare sulla strada delle riforme se vuole restare nell'euro. E sul fronte degli affari esteri i 27 si sono detti estremamente preoccupati per il deteriorarsi delle condizioni in Siria. L'Europa si impegna a fornire sostegno rapido al popolo siriano non appena avverrà la transizione politica dal regime di Assad, e ha condannato l'Europa ai bombardamenti in territorio turco. Un accenno infine nelle conclusioni del vertice anche al premio Nobel per la pace che l'Unione Europea ha vinto la scorsa settimana. Un onore per tutti i cittadini, paesi e istituzioni comunitarie viene definito. Da Bruxelles è tutto. Il commento del corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano. Ancora una volta l'Europa rischia di dividere i commentatori. L'intesa raggiunta sulla vigilanza bancaria deluderà alcuni e rassicurerà altri. Da un lato c'è il benestare politico per trovare un accordo sui principi entro fine 2012. Dall'altro, sulla ricapitalizzazione diretta delle banche c'è ancora molta incertezza. Il comunicato di questa notte è positivo perché rassicura i mercati sull'adozione rapida di una riforma cruciale. Nel contempo non offre sicurezza su quando si potranno ricapitalizzare le banche spagnole attraverso il fondo europeo ISM, spezzando il circolo vizioso tra bilancio sovrano e bilanci bancari. A conti fatti, gli aspetti positivi prevalgono su quelli negativi, anche se la partita è tutt'altro che chiusa. Modalità di voto sia alla Banca Centrale Europea che all'Autorità Bancaria Europea, rapporto tra BCE e autorità nazionali nella vigilanza quotidiana sono nodi tecnici ancora irrisolti e con delicatissime implicazioni politiche. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Per il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, i problemi economici che stanno affrontando i paesi europei impongono loro di andare avanti verso la nascita degli Stati Uniti d'Europa. Lo ha detto a margine dell'incontro bilaterale tra Confindustria e l'organizzazione tedesca degli industriali. Squinzi ha detto di avere apprezzato in particolare l'intervento al forum del vicepresidente del Senato Emma Bonino, un discorso condivisibile, ha detto Squinzi, che ha toccato proprio il tema dell'unione politica, una strada da perseguire con più decisione. La politica ci ascolterà, mi auguro di sì. I problemi che stiamo attraversando in questo periodo ci obbligano ad andare in questa direzione, ha concluso il leader degli industriali italiani. La conclusione in chiaroscuro del vertice europeo, intanto, con la decisione di dare alla BCE poteri di supervisione su tutte le banche europee nel corso del 2013, ma non dal 1 gennaio, così come l'impostazione tedesca favorevole a un uso delle ESM per ricapitalizzare le banche, ma non con uso retroattivo, ha pesato sull'andamento delle borse europee, che speravano anche in una richiesta formale di aiuto da parte della Spagna. Dopo tre giorni di rally, cui era seguita una pausa di riflessione, tutte le principali piazze europee hanno chiuso in deciso ribasso, con Milano in particolare che ha ceduto il 2% per quanto riguarda il FTSE MIB e l'1,9% per il FTSE All Share. Male anche Madrid, dove l'Ibex 35 ha lasciato sul terreno il 2-3%. Fra le altre piazze europee da segnalare la flessione dello 0,9% accusata da Parigi, mentre il DAX ha ceduto lo 0,76%. A Piazza Affari hanno chiuso in rosso 36 titoli su 40, con le sole eccezioni di Campari, che ha guadagnato l'1,43%. Dopo che ieri aveva risentito dei malumori sul settore derivanti dai conti di controllo. Un anno fa la morte del colonnello Gheddafi. Li staneremo come ratti, porta a porta, casa per casa, appartamento per appartamento. Questa arringa del colonnello Gheddafi contro i nemici del suo regime fece il giro del mondo, trasformandosi in disco music e cori da stadio, fino a diventare l'inno di una rivolta che sotto le ali dei jet NATO stanno lui, Gheddafi, il 20 ottobre 2011, nei dintorni di Sirte. A scovarlo fu un giovane, Omran Shaban, che solo per poco si godette il soprannome di ragazzo dalla pistola d'oro per le foto con le armi del Rais. Catturato da fedelissimi di Gheddafi, Shaban è infatti morto per le torture subite durante il sequestro. Come straziati erano i corpi del colonnello e del figlio Mutassim esposti a Misurata, una scena di macelleria i cui responsabili non sono stati individuati da alcuna inchiesta. A un anno dalla morte di Gheddafi, Bani Walid, roccaforte del vecchio regime, è ancora sotto assedio. Gli scontri sono quotidiani, ma un basso livello di sicurezza e l'infiltrazione dei gruppi legati ad Al-Qaeda accomuna tutto il paese, come ha dimostrato l'assalto al consolato americano di Bengasi, in cui ha perso la vita l'ambasciatore Chris Stevens, in seguito alle proteste per un filmaccio, L'innocenza dei musulmani, che speriamo nessuno intenda remixare. As you command, master. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Oltre 140.000 visitatori in più di un mese di viaggio attraverso le principali città italiane. Si conclude in questi giorni a Roma il tour italiano della Champions League, la coppa più desiderata del calcio europeo e mondiale, che nelle principali piazze italiane ha ricevuto l'abbraccio dei tifosi. Un successo che potrebbe anche rilanciare una candidatura italiana per una delle prossime finali di Champions. Dario Ricci ha intervistato Gregory Biscos, che ha rappresentato il governo del calcio europeo nella tappa romana del Champions Trophy Tour. Questa ultima tappa è un'opportunità unica per tutte la gente della capitale per vedere la Coppa da vicino, fare foto con la Coppa, vedere una costruzione qui in Piazza del Popolo unica, dove ci sono molte memorabilia della Champions League, molti oggetti che ricordano il passato di questa grande competizione. Roma ha ospitato la finale nel 2009, Milano candidata, spera di presentare la propria candidatura per il 2015. È una UEFA che comunque guarda almeno le due grandi città italiane come possibili sedi della finale di Champions. Sì, è vero che Roma ha ospitato la finale nel 2009, era una finale con molto successo. Per chi riguarda la finale del 2015, ancora non è conosciuti i candidati, e può essere magari una decisione del comitato esecutivo della UEFA nelle prossime prossimo anno. Ci sono anche gli artisti Paul McCartney e la leader dei Pretenders tra i firmatari che sostengono la petizione dell'organizzazione europea che si batte per la tutela dei diritti degli animali, per porre fine all'importazione e alla vendita nell'Unione Europea di prodotti cosmetici testati sugli animali. La petizione, con 250 firme, è stata consegnata al Parlamento Europeo e a Bruxelles. È tutto per questa edizione, un saluto e un ringraziamento da Valentina Furlanetto. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.